Componimento sesto dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Bruto minore. Poi che divelta nella tracia polve giacque ruina immensa l'italica virtute, onde alle valli d'Esperia verde e al Tiberino Lido il calpestio de barbari cavalli prepara il fato e dalle selve ignude, cui l'orsa algida preme a spezzar le romane inclite mura, chiama i gotici brandi. Sudato e molle di fraterno sangue, Bruto per l'atra notte, in erma sede, fermo già di morir, gli inesorandi numi e l'averno accusa, e di feroci note invan la sonnolenta aura percote. Stolta virtù, le cave nebbie, i campi dell'inquiete larve, son le tue scole, e ti si volge a tergo il pentimento. A voi, marmorei numi, se numi avete in flegetonte albergo o sulle nubi, a voi ludibrio e scherno è la prole infelice, a cui templi chiedeste e frodolenta legge al mortale insulta. Dunque tanto i celesti odi commuove la terrena pietà? Dunque degli empi siedi Giove a tutela? E quando esulta per l'aere il nembo e quando il tuon rapido spingi? Né giusti e pii la sacra fiamma stringi? Preme il destino invitto e la ferrata necessità agli infermi, schiavi di morte, e se a cessar non vale gli oltraggi lor de necessari danni, si consola il plebeo. Men duro è il male che riparo non ha, dolor non sente chi di speranza è nudo. Guerra mortale, eterna, o fato indegno, teco il prode guerreggia di cedere inesperto, e la tiranna tua destra, allor che vincitrice il grava, indomito scrollando si pompeggia, quando nell'alto lato l'amaro ferro intride e maligno alle nere ombre sorride. Spiace agli dèi chi violento irrompe nel Tartaro, non fora tanto valor né molli eterni petti. Forse i travagli nostri e forse il cielo i casi acerbi e gli infelici affetti giocondo agli ozi suoi spettacol pose, non fra sciagure e colpe, ma libera ne boschi e pura etade natura a noi prescrisse reina un tempo e diva, or poi ch'a terra sparse i regni beati empio costume e il viver macro ad altre leggi addisse. Quando gli infausti giorni virile alma ricusa riede natura e il non suo dardo accusa di colpa ignare e de lor propri danni le fortunate belve, serena adduce al non previsto passo la tarda età. Ma se spezzar la fronte ne rudi tronchi o da montano sasso dare al vento precipiti le membra, lor suadesse affanno al misero desio nulla contesa legge arcana farebbe o tenebroso ingegno. A voi, fra quante stirpi il cielo avvivò, soli fra tutte, figli di Prometeo, la vita increbbe. A voi le morte ripe, se il fato ignavo pende, soli o miseri, a voi Giove contende. E tu dal mar, cui nostro sangue irriga, candida luna, sorgi, e l'inquieta notte e la funesta all'ausonio valor campagna esplori. Cognati petti il vincitor calpesta, fremono i poggi dalle somme vette Roma antica ruina. Tu si placida sei, tu la nascente, Lavinia prole e gli anni lieti vedesti e i memorandi allori, e tu sull'alpe l'immutato raggio tacita verserai quando ne danni del servo Italo nome sotto barbaro piede rintronerà quella solinga sede. Ecco tra nudi sassi o in verde ramo e la fera e l'augello del consueto oblio gravido il petto, l'alta ruina ignora e le mutate sorti del mondo, e come prima il tetto rosseggerà del villanello industre, al mattutino canto quel desterà le valli e per le balze quella l'inferma plebe agiterà delle minori belve. O casi, o gener vano, abietta parte, siam delle cose, e non le tinte glebe, non gli ululati specchi turbò nostra sciagura, né scolorò le stelle umana cura. Non io d'Olimpo o di Cocito i sordi regi o la terra indegna, e non la notte moribondo appello, non te dell'atra morte ultimo raggio, conscia futura età, sdegnoso avello, placar singulti, ornar parole e doni di vil caterva? In peggio precipitano i tempi, e mal s'affida a putridi nepoti l'onor de gregie menti e la suprema de miseri vendetta. A me d'intorno le penne il bruno augello avido roti, prema la fera, e il nembo tratti l'ignota spoglia, e l'aura il nome e la memoria accoglia. Fine del componimento sesto.